Come ha contribuito Mubi ad arricchire la rassegna qui di Serre d'Estate? Mubi per il terzo anno di fila collabora con Le Serre per la rassegna Semi, il cinema Le Serre, che inizierà in data 24 maggio con un evento speciale che è la proiezione dei cortometraggi Green Porno di Isabella Rossellini alla presenza della stessa Isabella Rossellini, che dialogherà con la zoologa di fama nazionale Mia Canestrini. E poi un programma che passerà attraverso vari film provenienti dal catalogo di Mubi, come How to Have Sex, distribuito da poco nelle sale italiane, introdotto da Eugenia Fattori e Attilio Palmieri, fino a Antipop, quindi le produzioni italiane che Mubi vuole promuovere, Antipop di Jacopo Farina, introdotto dallo stesso regista con Francesco Locane, giornalista che si occupa di musica, e chiuderemo settembre, l'11 settembre per la precisione, con Tommaso Sant'Ambrogio, regista di Gli oceani sono i veri continenti, che ha appena vinto, sempre qui in Emilia Romagna, il premio più prestigioso del Bellaria Film Festival, il premio Casa Rossa, e che presenterà il suo debutto che in concomitanza uscirà sulla piattaforma Mubi. Quindi un programma di ben 8 incontri che si sviluppano tra fine maggio e inizio settembre, che vanno ad arricchire la programmazione già molto ricca delle serre, con una proposta cinematografica internazionale molto connessa con il palato dei bolognesi. Come avete scelto i film da presentare? Abbiamo scelto prendendo appunto dalle distribuzioni che Mubi fa e poi cercando di proporre un percorso attraverso dei temi, quindi la scoperta del sé, il consenso, ma anche il coming of age, quindi quei film che mostrano come Antipop e Gas on a Rainbow, che è uno degli ultimi film che Mubi distribuirà a fine mese, ma anche esplorazioni intese come identità di genere, quindi Orlando, la mia biografia politica di Paul Preciado, o esplorazioni in territori oscuri, come sì, quelli di Sick of Myself, e Crossing the Bridge, che invece è il film restaurato di Faith Akin, regista della Sposa Turca, che Mubi riproporrà e che mostra che fa un'esplorazione della scena musicale di Istanbul e del Bosforo. Quindi sono dei film che dialogano molto tra di loro, che presuppongono una visione del mondo sempre esplorativa e mai statica, e che in un modo o nell'altro danno l'idea di un fermento culturale e cinematografico presente internazionalmente, che di sicuro sarà di interesse per i bolognesi che, appunto, essendo la terza edizione della rassegna, arrivano a questo appuntamento con una richiesta già di un palato già fine, quello del pubblico bolognese, formatosi in vari anni di frequentazioni da una città che appunto propone un'offerta dal punto di vista culturale e cinematografica veramente di alto livello.